Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. It's been 7 months already. It's incredible how the time runs quickly over here. Walking on the streets, you hear hundreds of languages. It's kind of weird how you can feel lonely in a city with millions of people. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ciao mamma, London Experience di Lorenzo Antico ci introduce alla puntata di oggi. Sono già passati 7 mesi ed è incredibile come il tempo scorra così velocemente da queste parti. Venire qui in Gran Bretagna mi ha dato la possibilità di avere ancora una volta un punto di vista diverso che mi ha arricchito e dato valore aggiunto. Eccomi qui, pronto ad essere plasmato da una città straniera. Tutto dipende dalla propensione all'assorbimento, non importa quanto tutto e tutti tentino di buttarmi giù, nessuno mi porterà via la voglia di volare. Questo è lo script del video che potete ritrovare anche sul sito Vimeo. La frase della settimana è copyright di Mario Draghi, presidente della BCE. Uno dei motivi per cui alcuni paesi dell'Eurozona hanno un'elevata disoccupazione giovanile è che questi paesi hanno introdotto grande flessibilità, ma solo per i giovani, rendendoli i primi ad essere licenziabili quando la crisi ha colpito il mondo del lavoro. Altro motivo, ha aggiunto Draghi, è un sistema educativo in fondo alla classifica OCSE. Istantanee di un declino. L'Italia resta agli ultimi posti nell'Unione Europea per tasso di occupazione. Nel 2013, secondo Eurostat, lavorava solo il 60% delle persone tra i 20 e i 64 anni, un dato che riporta il paese ai livelli del 2002. Il dato è di 8 punti e mezzo inferiore alla media comunitaria e il peggiore dopo quello di Grecia, Croazia e Spagna. La fascia più penalizzata è quella tra i 25 e i 34 anni. E così, scoraggiati dalle condizioni offerte in Italia, i nostri giovani fanno le valigie verso la Gran Bretagna. Come vi abbiamo annunciato 3 settimane fa, è boom per l'emigrazione oltremanica. A confermarlo i dati relativi al National Insurance Number inglese, essenziale per poter lavorare sull'isola. Lo scorso anno lo hanno richiesto 44.000 giovani italiani, più 66%. Siamo terzi dopo Polonia e Spagna. Secondo il professor Francesco Billari, il rischio potenziale è che un 18enne su 13 finisca col fuggire verso il regno di Sua Maestà, oppure ancora più lontano, come insegna la storia di oggi. La regola del dover aspettare il proprio turno non vale solo nell'ambito delle professioni legali. E chi ci rimette, secondo me, è il paese stesso. Simone Bertolini, 33 anni, è un avvocato specializzato in diritto di immigrazione a New York. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Emergenza e emigrazione sull'onda della crisi. Nel 2012 hanno lasciato l'Italia oltre 26.000 giovani tra i 15 e i 34 anni, 10.000 in più rispetto al 2008, lo rileva l'Istat nel rapporto annuale, spiegando che negli ultimi 5 anni sono fuggiti quasi 100.000 giovani. Il flusso di uscita dei laureati è di 6.340 unità, con un saldo di meno 4.000 rispetto agli ingressi. Le mete di destinazione: Regno Unito, Germania, Svizzera. E l'Istat conferma, i giovani sono i più colpiti dalla crisi. I 15-34 anni occupati diminuiscono in 5 anni di 1.800.000 unità. Nel 2013 i cosiddetti NEET, giovani senza lavoro studio, hanno toccato quota 2.435.000, in aumento di 576.000 rispetto al 2008. Infine il lavoro atipico riguarda il 25% dei 15-34 anni e il 31% dei laureati. Boom dell'emigrazione italiana in Germania anche nel 2013, lo rileva l'Istituto di Statistica tedesco Destatis, secondo cui lo scorso anno si sono trasferiti nel paese oltre 1,22 milioni di persone, tante come non accadeva da 20 anni. Tra i maggiori aumenti, appunto, gli emigrati dall'Italia, più 52%, e dalla Spagna. Dalla penisola sono espatriati 32.000 connazionali. 7 giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti dall'Italia. Il 56% andrebbe a vivere all'estero per fare un'esperienza diversa, ma soprattutto per trovare lavoro, perché l'Italia non premia il talento e non crede nei giovani. 3 motivi, questi ultimi, che accomunano il 43% del campione. Lo afferma l'indagine Generazione Proteo di Link Campus. Percentuali persino più inquietanti dall'indagine Gen World sulla vulnerabilità finanziaria. Il 70% degli italiani under 25 è disposto a cercare un lavoro oltre confine. Il 56% dei 25-44 anni dichiara di trovarsi in una situazione peggiore rispetto a quella dei genitori. Meritocratica, innovatrice, internazionale, questa è l'Italia che sognano invece gli under 24, lo afferma l'indagine Prelios SGR. Oltre il 75% spera in un paese innovatore globale, il 73% vuole una nazione più meritocratica. Dall'indagine emerge come per oltre la metà di questi giovani la situazione economica sia peggiorata negli ultimi 5 anni. La nuova emigrazione italiana, questo è il titolo del convegno organizzato nelle scorse settimane dall'Università Veneziana Ca' Foscari, che si è focalizzata sulle nuove mobilità dalla penisola. I risultati sono in chiaro scuro, come spiega Pietro Basso, professore di sociologia e organizzatore del convegno. È vero che rispetto alle migrazioni italiane storiche noi abbiamo emigranti con un livello di istruzione decisamente superiore. C'è una minoranza di essi, un 10-15%, che effettivamente entra all'interno di università, all'interno di centri di ricerca, inizia attività imprenditoriali, ha incarichi di consulenza. La grande massa tutt'oggi di questi emigranti, però, pur con qualifiche, livelli di istruzione significativi, va a svolgere mansioni che sono delle mansioni che non possiamo considerare delle mansioni privilegiate. Possiamo definirlo esodo questo che è in corso all'Italia? Certamente l'Italia è ancora un paese prevalentemente di immigrazione, però la emigrazione dall'Italia sta crescendo, si sta crescendo anno dopo anno. Almeno fino al 2013 abbiamo avuto dal 2010 una crescita abbastanza sostenuta, e non solo verso i paesi tradizionali di emigrazione. C'è una crescita anche, per esempio, verso la Cina. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti. È una vicenda che offre molteplici spunti di riflessione e denuncia, quella che stiamo per raccontarvi. Andiamo a focalizzarci sul settore legale. Parliamo di giovani avvocati. Nome: Simona. Cognome: Bertolini. Età: 33. Città di origine: Roma. Studi: giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Negli Stati Uniti. Perché? Per dare più spazio alla mio talento e creatività. Quale lavoro svolgi attualmente? Faccio l'avvocato. Dove? A New York. Tornerai? Penso di sì, ma non ora. A song that will take us back to the city where everything started for me. Start spreading the news. Ho deciso di andare via dall'Italia perché non trovavo alcun modo di fare carriera. Partiamo da qui, Simone, dalla lettera che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. Partiamo da un paese dove la regola non è l'opportunità, ma il limite o il freno. Chi perde in questa Italia degli ascensori sociali bloccati e della concorrenza ridotta a una barzelletta neppure lontana parente della competizione vera, quella all'americana? Direi che perdono un po' tutti. Come già sai, la regola del dover aspettare il proprio turno non vale solo nell'ambito delle professioni legali. E chi ci rimette, secondo me, è il paese stesso. È molto interessante partire dai tuoi studi universitari, perché è proprio lì che troviamo le radici della tua emigrazione. Inizi l'università in ritardo a 23 anni e scegli la facoltà di giurisprudenza a Roma Tor Vergata. Perché proprio legge? Un po' per caso all'inizio, per due motivi principali. La mia fidanzata di allora studiava giurisprudenza, poi nello stesso periodo mia madre venne coinvolta in una causa ereditaria. Ma la cosa impressionante è che in poco più di due anni, tra il marzo 2005 e il luglio 2007, completi tutti gli esami e non solo, trovi anche il tempo di scrivere la tesi. Come hai fatto? Diciamo che l'ho presa come un lavoro a tempo pieno. E ricordo che studiavo per 3 esami alla volta e in fondo non ho mai puntato a prendere voti alti. Il mio obiettivo era solo quello di fare il prima possibile. E qui arriva, attenzione, la sorpresa. In base a quale norma legislativa scopri che finire prima l'università in Italia è impossibile? Solo il nome mi fa rabbrividire. Regio Decreto 1269 del 1938. Siamo nel 2014, questa è una legge del 1938. Quali conseguenze pratiche ha portato nel tuo caso? Ok, intanto c'è da dire che questo Regio Decreto si applica solo agli ordinamenti, diciamo, vecchi ordinamento. Nel nuovo ordinamento non si applica. Quindi per fortuna i nuovi laureandi sono esentati. Sì, in pratica, secondo questo Regio Decreto, il mio corso di laurea avrebbe dovuto avere una durata minima di 4 anni accademici. Quindi in pratica mi dissero che avrei dovuto aspettare per più di un anno senza poter far niente nel frattempo, per poi potermi poi laureare. Simone, non è però assurdo avere in vigore, almeno fino a pochi anni fa, una norma di epoca fascista che penalizza proprio i più bravi? Io intanto direi che non necessariamente, diciamo, solo i più bravi. Nel mio caso, diciamo, ho penalizzato una persona efficiente, diciamo qualcuno come me che voleva semplicemente completare gli studi, iniziare a lavorare nel minor tempo possibile. In fondo io non sono mai riuscito a capire che senso ha l'attesa per il compimento dei famosi 4 anni accademici. Giovani Talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Simone Bertollini, avvocato 33enne, esperto in diritto di immigrazione a New York. Storia da raccontare e da ascoltare con molta attenzione, quella di Simone, laureato sia alla velocità della luce in Italia, con grande anticipo sui tempi, e per questo condannato ad aspettare la discussione della tesi. Emigrato negli Stati Uniti, ha trovato ben più rapidamente una seconda laurea e un'opportunità di lavoro. Ci sono storie che valgono più di 1000 saggi teorici sui mali endemici di questo paese. Questa è una di quelle. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Tu non ti rassegni e fai anche ricorso al TAR. Come andò a finire? Il ricorso venne rigettato. Suona un po' ridondante nel tuo caso, però te lo chiedo ugualmente. Qual è il tuo personale voto all'università italiana? Su una scala da 0 a 10 direi 7, forse. La sconfitta al TAR è stata la cosa più importante della mia vita, ricordi, per paradosso ora, quale potente reazione scatenò in te e a quale decisione irreversibile ti portò? Beh, ero abbastanza furioso, diciamo, non potevo accettare un nonsenso del genere, praticamente ho iniziato a pensare che la mia carriera in Italia sarebbe stata tutta piena di cose del genere, allora ho deciso di cambiare paese invece di continuare a, diciamo, sbattere di fronte a questi muri. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Dopo la laurea, considerato che non trovavo neppure uno studio legale in Italia per poter svolgere il praticantato, decisi di venire negli Stati Uniti, Università del Kansas, per iniziare gli studi giuridici da capo. Simone, quali sono i principali ostacoli nell'ingresso alla professione per un aspirante avvocato in Italia? Non ho provato molto, però per sentito dire da altri della mia età bisogna fare tutta una trafila che include lavori non remunerati, molto spesso anche umilianti, e poi ovviamente c'è l'attesa. Il rischio sfruttamento mi sembra molto alto. O sbaglio? Sì. L'abbiamo detto, negli Stati Uniti hai ripreso gli studi da capo. Quanto hai trovato diverso l'approccio americano nell'insegnamento della giurisprudenza? Il sistema qui è basato sul common law, quindi sul precedente giuridico, mentre in Italia è basato sui codici, quindi sul civil law. Quindi le discussioni in classe sono inevitabilmente sempre solo su casi concreti. Però l'altra differenza importante, che secondo me è cruciale e io apprezzo molto qui negli Stati Uniti, è il fatto che nelle facoltà di legge americane sono previsti classi in cui si fanno processi simulati, così si impara già all'università, prima di laurearsi, come funziona in una vera aula di tribunale. Tanto per cambiare, è vero che sei riuscito a laurearti prima anche lì? Sì, mi sono laureato qui con un semestre di anticipo e chiaramente qui non ho avuto nessun problema, il preside si è congratulato con me. Poi hai passato gli esami di avvocato a New York e nel New Jersey al primo tentativo, poi ti sei spostato proprio nel New Jersey. Allora ti chiedo, come sono stati gli inizi? Quanto è stata dura avviare la tua attività legale partendo da zero in un paese straniero? Beh, ovviamente molto difficile, però io sono stato sempre molto umile, molto motivato e ho sempre lavorato molto duro. E almeno qui non c'era nessuno a mettermi freno, qui quello che puoi fare fai e va bene, e molti dei clienti che la società mi sembra più meritocratica, soprattutto più concorrenziale, no? Beh, direi di sì, il fatto solo che non hai bisogno di dover fare il praticantato all'inizio, quindi di perdere quei famosi 2 anni, di metterti a chiedere, diciamo, il favore a qualcuno di farti fare il praticantato. Per favore, sì. Uscire dall'università e poi direttamente metterti in pratica. Di cosa ti occupi ora esattamente? Mi occupo principalmente di diritto di immigrazione. Molti dei miei clienti sono società americane che vogliono assumere lavoratori specializzati stranieri, in molti dei casi italiani, oppure al contrario società italiane che vogliono trasferirsi in America per scappare dalla irragionevole imposizione fiscale. Questo almeno è quello che mi dicono. La domanda viene da sé: qual è il principale consiglio che vuoi dare a un giovane italiano che vuole trasferirsi a lavorare negli Stati Uniti, ma chiaramente si deve imbattere nella questione visto? Negli Stati Uniti, diciamo, è molto complicata la questione dei visti. Negli ultimi tempi gli Stati Uniti sono diventati estremamente selettivi per la concessione di visti di lavoro. Il mio consiglio principale è quello di, diciamo, lavorare sodo mentre si è ancora in Italia, farsi un curriculum eccellente e poi, diciamo, presentarsi qui con, diciamo, le qualifiche più alte possibili. E farsi sponsorizzare da un datore di lavoro, quindi? Beh, quello chiaramente è sempre necessario, però quando si hanno qualifiche molto alte, chiaramente poi l'opportunità di lavoro c'è. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me l'Italia è uno tra i migliori posti al mondo per qualità di vita, però purtroppo per lavorare e fare carriera sembra un disastro. Da dove ripartirei? Io proverei a fare come qui negli Stati Uniti, proverei ad incentivare l'immigrazione da investimenti, ossia il rilascio dei visti a chi investe e crea posti di lavoro per gli italiani. E chiaramente questo implica la diminuzione delle tasse per le imprese e la riforma delle norme di diritto del lavoro. Ci raggiunge ora in linea Massimo Autieri, presidente di UGAI, Unione Giovani Avvocati Italiani. Buon pomeriggio. Salve, salve. Massimo, partiamo commentando proprio la storia di Simone. Secondo te non troviamo in piccolo una summa dei freni che bloccano l'Italia? La storia di Simone non è altro che lo specchio del momento pessimo che vive l'avvocatura, la professione forense in Italia, ma soprattutto ancor prima il sistema universitario. Il sistema universitario che non riesce, secondo me, a essere al passo con i tempi, perché lui ha parlato di laboratori giuridici, di processi simulati, che nelle nostre università, salvo qualche docente che riesce ancora in un confronto di diritto comparato a confrontarsi con le istituzioni del common law, non riesce ancora a introdurre questa nuova sistematica di insegnamento. Cos'è UGAI in breve? È un'associazione che si occupa sostanzialmente di queste problematiche. Le storie di Simone per me sono note, ma per tutti i componenti dell'associazione, del direttivo, non mi è nuovo, non mi meraviglia la storia di Simone. Quanto sono alte le barriere in ingresso per i giovani avvocati? Un po' l'abbiamo detto. Oggi c'è una barriera che secondo me ostacola l'ingresso in maniera evidente. Non è solo tanto l'idea di un praticantato che poi sfocia in un esame. Io sarei più per un sistema di tipo tedesco. Meglio prima far superare l'esame e poi eventualmente far effettuare quello che è un tirocinio, per non permettere più quell'opera di sfruttamento alla quale faceva riferimento il collega Simone. Che c'è, è molto diffuso tra gli... Certo, sì. Che è diffuso, ma ciò che diciamo costituisce secondo me una barriera d'ingresso adesso formidabile è proprio per l'avvocato che già diventa avvocato, perché addirittura si pretende che in maniera rapida si iscriva alla cassa e che paghi l'esborso minimo, che sono circa credo 3.000 euro l'anno, insomma, complessivamente tra le varie. Un esborso per chi non guadagna, che non ha ancora clienti, perché è un novizio, un neoavvocato, che diventa francamente insormontabile. Come ecco, Simone, hai una domanda per Massimo Autieri? Massimo, negli ultimi anni si parla molto della riforma degli ordini in Italia, o quantomeno diciamo di un cambiamento per snellire queste, diciamo, queste lobby, queste barriere. Io volevo sapere che cosa ne pensi e soprattutto cosa ne pensi del fatto che negli Stati Uniti l'esame di avvocato è 100% anonimo e non c'è spazio per favoritismi. Il sistema italiano ha fatica, c'è stata la riforma dell'accesso alla professione forense che praticamente adesso prevede che addirittura l'esame è sicuramente anonimo alla prova scritta. Sicuramente c'è una difficoltà nel fare quei favori, adesso non si possono utilizzare più i codici, però la sensazione forte che si ha è che queste riforme non siano state fatte per impedire i favoritismi e le lobby, insomma, ma sostanzialmente è stata fatta per restringere l'accesso alla professione, e se una professione è libera, restringerla in questa maniera e dare l'idea di una, come dire, di una chiusura drastica degli ordini professionali perché magari non c'è più lavoro, allora dice non c'è domanda di lavoro, riduciamo l'offerta sostanzialmente. E questo quindi altro che concorrenza, Massimo, qui la restringiamo ulteriormente, retrocediamo ulteriormente all'età della pietra, temo. Grazie a Massimo Autieri, presidente di UGAI, e domanda di rito per Simone Bertolini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Beh, il mio consiglio ai giovani è quello di non arrendersi di fronte ai muri di questo genere eretti dal sistema, di non farsi imporre da nessuno tempi di attesa o tabelle di marcia sulla carriera. Bisogna essere audaci, bisogna avere il coraggio di andare a cercare fortuna altrove. Peraltro non è indispensabile emigrare negli Stati Uniti, dato che qui è molto difficile prendere il visto. Secondo me, diciamo, ci sono opportunità ovunque nel mondo per chi merita. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo importanti opportunità all'Ufficio Europeo dei Brevetti, che intende reclutare oltre 200 ingegneri e ricercatori per i suoi uffici a Monaco di Baviera, L'Aia e Berlino, scadenza per i CV 2 giugno, info su epo.org. Una Digital Content Officer per la Fondazione ISDL a Bruxelles, scadenza per i CV 10 giugno, info su ecdl.org. E infine un agronomo per BioAtlantis a Kerry in Irlanda, scadenza per i CV 14 giugno, info su bioatlantis.com. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi riapriamo, come ogni fine mese, il canale di dialogo con voi ascoltatori, facendovi sentire alcune delle lettere che giungono quotidianamente alla casella email giovanitalenti@radio24.it. È il turno di Chiara, che ci spiega con grande passione perché ha deciso di fare il percorso contrario alla massa, trovando il coraggio e la determinazione di tornare in Italia. Mi chiamo Chiara. Forse la mia storia è strana e diversa, forse sono io la pecora nera, ma ho sempre voluto lavorare in Italia, contribuire all'eccellenza della ricerca scientifica e tecnologica in questo paese. Vi scrivo per incoraggiare chi ha perso le speranze e chi si sente in un angolo senza via di uscita. Sono un chimico industriale di 29 anni, mi sono laureata a Milano nel 2008 e ho iniziato subito a lavorare. Ho cambiato lavoro ogni 2 anni, anche se avevo contratti a tempo indeterminato, perché volevo imparare il più possibile. Nel 2010 mi sono trasferita in Inghilterra. Per 2 anni ho lavorato in un favoloso centro ricerche di una multinazionale del petrolio, ma già dopo 18 mesi volevo tornare. È vero che nemmeno in Lombardia avrei avuto opportunità di imparare il lavoro che mi hanno insegnato a Londra, ma ho sempre avuto voglia di portare a casa la mia esperienza e contribuire al benessere e alla crescita del mio paese. Avevo così voglia di tornare che ho dato le dimissioni senza avere un altro contratto in Italia, ma non sono mai stata preoccupata. Sapevo di avere le forze e l'esperienza che sarebbero interessate a diverse aziende. Continuo a studiare, ho fatto un master, ho partecipato a programmi di mentoring e coaching. Ogni giorno spendo almeno 1 ora del mio tempo libero ad aggiornarmi su cosa succede nel mio settore e come si muove il mondo del lavoro. Sono convinta che non ci si possa permettere di accontentarsi di un solo titolo di studio per ottenere il lavoro che si desidera. Bisogna faticare tanto. Il 90% dei miei compagni di università sta lavorando all'estero. È un passaggio fondamentale oggi, ma non è necessariamente una destinazione. Ora che ho realizzato i miei progetti lavorativi, sono quadro in una multinazionale della chimica, sogno una famiglia. Potrebbe capitare di doversi trasferire all'estero un giorno, ma almeno non sarò più sola. E poi questa è un'altra storia. Un motivo per restare o tornare. SRL semplificate o a 1 euro, secondo i dati Union Camera, nel 2013 c'è stato un boom di under 35, oltre 10.000 sui 19.000 iscritti totali, che hanno costituito un'impresa con capitale sociale inferiore ai 10.000 euro. Lazio e Campania si contendono la leadership a livello regionale, seguite dalla Lombardia. E secondo la Camera di Commercio di Monza e Brianza, nel primo trimestre dell'anno in Calabria il 40% delle nuove imprese sono state aperte da persone sotto i 35 anni, in Sicilia il 39%, in Campania il 37%. Parte di questo boom sarebbe stato reso possibile dal successo di impresainungiorno.it, il portale unico per tutti i procedimenti necessari all'avvio di un'azienda. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Quote Giovani. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di maggio. Quote giovani nelle assunzioni in posizioni dirigenziali, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche, lo chiedono i giovani, secondo una recente indagine Coldiretti. Siete d'accordo? Più under 40 nelle posizioni di management in modo obbligatorio? Dite la vostra. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.